Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e sette minuti, inizia una nuova puntata di Focus Economia, giornata molto intensa oggi per quello che riguarda la cronaca più economica che finanziaria, va detto. Perché? Perché sono usciti i dati dell'Unione Europea sull'andamento delle economie dell'area euro, ma non solo, il primo trimestre dell'anno, come immaginavamo, molto negativo, le previsioni del Fondo Monetario, ma soprattutto questa mattina c'è stata, l'abbiamo anticipata già ieri con l'intervista del presidente dell'ABI Faissola, l'assemblea annuale dell'Associazione delle Banche Italiane. È intervenuto, oltre allo stesso Faissola, chiaramente anche il ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Apertura, forse questa è la notizia più forte, verso il mondo bancario da parte di Tremonti, che nel passato aveva avuto anche parole abbastanza caustiche comunque nei confronti delle banche. Apertura, o meglio, se vogliamo dirla così, scambio. Ha detto infatti Tremonti alle banche: siamo disponibili a ragionare su dei vantaggi fiscali, soprattutto per quello che riguarda la tassazione dei passivi, se in cambio le banche opereranno una moratoria nei confronti del credito alle imprese. Ne parleremo ampiamente nel corso della prima ora del programma. E poi il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che è intervenuto e ha detto in maniera abbastanza netta: le banche, soprattutto le piccole e medie, ma non solo, attenzione, certi spread, certi tassi non sono più praticabili, certe commissioni sono troppo alte, basta con il massimo scoperto, con la commissione di massimo scoperto che rientra dalla finestra. Insomma, forse come analisi è stato quasi più duro Draghi con le banche che lo stesso Tremonti. Detto questo, di economia si continuerà a parlare, anche perché è stato uno dei temi chiave della prima giornata del G8 dell'Aquila, conferenza stampa alle 19.30, quindi fuori dall'orario del programma, ma avremo modo già di vedere dopo l'apertura di Gordon Brown alla proposta italiana sulle regole. Nuove regole per il mercato, legal standard, proposte di Tremonti, come stiano evolvendo anche le varie ipotesi, soprattutto all'interno del lavoro degli Sherpa, dei cosiddetti Sherpa, ossia della parte del supporto tecnico ai vari presidenti e capi di governo presenti all'Aquila, chi poi si occupa di lavorare sui documenti concretamente e limando anche le possibili divergenze, correggendo quello che si riesce a correggere. I mercati finanziari purtroppo male anche oggi, 1,5% il calo, il MIB, il FTSE MIB si avvicina a 18.000 punti, -1,5% anche il FTSE All, perde l'1,2 Parigi, Francoforte un po' meglio, 0,5% il calo di Francoforte, Londra -0,6, l'America perde 0,20, da noi pesano oggi soprattutto i titoli bancari, -4,7 la Popolare di Milano, -4,4 il Banco Popolare. E poi ancora Pirelli, inflessione -3,80, CIR perde il 4,6, Campari il 4,2, Geox il 3,90, negativa sopra la media anche Luxottica -3,80, Tenaris -3,6, Unipol -3,3 come Autogrill, il 3% lo perde Buzzi Unice, ma anche Telecom Italia e il Monte dei Paschi e Fondiaria Sai. Il 2,90% è il calo di Unicredito da un lato e di Mediolanum dall'altro. Chi guadagna? In pregilo +2,1, Terna +1%, Finmeccanica +0,90, euro a quota 1,3893. Rapidamente le notizie in breve. Cala l'euro, ma cala di tanto anche il petrolio, a $61,69 dopo i dati sulle scorte di benzina americane, che sono risultati superiori a ogni attesa. Devo dire che se pensiamo a un anno fa, quando il petrolio viaggiava oltre i $100 al barile, verso il record che toccò, se non vado errato, proprio a luglio, l'11 luglio, quindi manca pochissimo, l'11 luglio di un anno fa il petrolio viaggiava a $147, adesso siamo a 61, se tanto mi dà tanto, la componente diciamo, sulla benzina, quel 30% dovrebbe essere alla metà, anzi meno della metà. Vedremo se sarà così anche alla pompa. E restiamo in tema di pompe di benzina, perché continua l'adesione allo sciopero, 86% i distributori chiusi, sciopero, questo è il dato diffuso dalla FAIB Confesercenti. Ricordo che lo sciopero andrà avanti anche domani. Ancora per quello che riguarda i mercati, il Giappone, a parte la chiusura molto brutta questa mattina a Tokyo, meno 2,3%, gli ordinativi di macchinari in Giappone hanno segnato un calo mensile del 3% a maggio, è il livello più basso da 22 anni a questa parte. Andando su dati ancora più aggregati, più macroeconomici, Bruxelles ha certificato un vero e proprio crollo dell'economia dell'area euro nei primi tre mesi del 2009, meno 4,9% rispetto all'anno prima, meno 2,5% rispetto all'ultimo trimestre del 2008. È il calo più forte da quando è nato l'euro e quindi da quando esiste l'area euro. Sempre in tema di dati economici, il Fondo Monetario oggi ha rivisto le stime sulla crescita mondiale in peggioramento, non di molto, lo dico subito, però insomma avremmo preferito una revisione al rialzo. Invece meno 1,4% l'economia globale quest'anno, contro l'1,3% previsto in aprile, e però l'anno prossimo la crescita economica a livello mondiale dovrebbe essere del 2,5% e non più dell'1,9% stimato in aprile. Come dire che nel 2010 ci sarà una crescita probabilmente asiatica, forse in parte anche americana, ma più consistente delle attese di aprile. Per quello che riguarda l'America, più 0,8% il PIL americano nel 2010, quest'anno meno 2,6%. Notizie non così buone per l'area euro, perché la zona euro sarà negativa come PIL anche l'anno prossimo. Secondo le previsioni del fondo, quest'anno farà meno 4,8%, l'anno prossimo meno 0,3%. Percento, l'Italia rivista in peggioramento, meno 5,1% il PIL italiano quest'anno, meno 0,1% l'anno prossimo. Anche in questo caso è peggiorata la stima sul 2009, è leggermente migliorata invece la stima sul 2010. In precedenza era un meno 0,4%, adesso dice il Fondo Monetario è un meno 0,1%. Dei dati sulla disoccupazione e cassa integrazione parleremo nella seconda ora del programma. Oggi su questo è intervenuto anche il governatore Draghi, ha detto attenzione, usare cautela, una rondine non fa primavera, e anche la presidente di Confindustria Marcegaglia ha detto resta positivo il dato sulla cassa integrazione e guadagni, ma resta il timore della chiusura di molte imprese, di molti impianti. Tant'è che oggi l'UCIMU, attraverso il suo centro studi, ossia l'unione che raggruppa i produttori di macchine e utensili, di robot e di automazione, stiamo parlando di una delle colonne portanti dell'industria italiana, del settore manifatturiero, quest'anno la produzione è attesa in calo del 33,7%, sia per un meno 32% nell'export che per un meno 34% anche nel mercato interno. Il G8 è molto vicino ad un accordo sulla condiviso, una dichiarazione condivisa sui temi dell'economia. Gli Sherpa stanno limando, questi Sherpa che prima o poi avranno anche un volto, comunque stanno limando l'ultima parte del documento. Dovrebbe esserci un appello alla stabilità finanziaria globale, nella bozza le persone, l'individuo al primo posto, quindi l'impegno anche a salvaguardare la dimensione sociale della crisi, un maggiore controllo e quindi la necessità di una supervisione finanziaria a livello mondiale, il respingimento di ogni tipo di protezionismo e poi anche altri appelli in un G8 in cui le prime cose che trapelano è una stabilizzazione, sono comunque commenti di una stabilizzazione delle varie economie e di un'economia che sta faticosamente uscendo dalla parte peggiore, anche se restano incertezze e rischi. E poi arriverà un documento in cui si parlerà anche della lotta ai paradisi fiscali e delle strategie, quelle che si chiamano in gergo exit strategies, quindi le strategie per uscire, per ripartire nel dopo crisi. Appello alle regole e all'etica anche da parte del ministro all'economia Tremonti, lo ha fatto oggi all'assemblea dell'ABI. In realtà però di questo, ripeto, del G8 parleremo nella seconda ora del programma. Partiamo quindi con il primo tema, la prima notizia di oggi. L'assemblea dell'ABI, come ogni anno, l'assemblea annuale delle banche italiane, presente tutti i vertici del mondo bancario, finanziario, ma anche economico del paese. Ci si attendeva, c'era molta curiosità per sapere che cosa avrebbe detto Tremonti, ma anche Draghi. Ripeto, una mia valutazione, quindi vale pochissimo. La vera notizia è questa apertura, questa ipotesi di scambio che il ministro Tremonti ha avanzato nei confronti del mondo bancario, e quindi sì a allentare anche la pressione fiscale per quello che riguarda le sofferenze, la tassazione delle sofferenze bancarie, ma in cambio le banche operino una moratoria sui crediti alle imprese, quindi sospendano per i prossimi mesi quello che sarebbe invece una necessità di chiedere alle imprese di rientrare o di negoziare il debito. Allora parliamo della 49esima assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana. Come già si era capito ieri nella nostra intervista con il presidente dell'ABI Faissola, il tema grosso in questo anno di crisi dell'assemblea delle banche italiane era il tema banche imprese. Insomma, nessuno poi aveva voglia di tornare sulle origini di questa crisi, sul come si è fatta, come si sia riusciti a farla diventare da finanziaria a economica. Adesso il punto è tener botta in quello che è il paesaggio imprenditoriale e produttivo italiano. E allora su questo, visto che la polemica è anche, insomma, le banche dicono che il credito non viene, non c'è nessun restringimento sul credito, che sono le imprese che non lo chiedono, insomma, parla per tutti Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, e questo è il suo giudizio su come sta andando il credito bancario al settore privato. Il credito al settore privato rallenta ancora. Da aprile la variazione su 3 mesi è divenuta negativa. In maggio era pari a meno 0,9% su base annua, mentre nell'ultimo decennio il tasso di crescita medio anno del credito al settore privato è stato pari a poco meno del 10%. La contrazione riguarda le imprese, mentre i prestiti alle famiglie continuano ad espandersi, anche se a ritmi complessivamente inferiori a quelli degli ultimi anni. È particolarmente intensa la decelerazione dei prestiti erogati dai gruppi bancari maggiori. E quindi, secondo il governatore della Banca d'Italia, c'è un calo continuo, anche se diciamo con qualche rallentamento, del prestiti che le banche erogano al settore privato, quindi alle famiglie e alle imprese. In realtà Draghi ha detto, attenzione, complessivamente rallenta, però la contrazione riguarda più le imprese che le famiglie. Anche i prestiti alle famiglie sono minori, ma restano col segno più, diciamo, mentre la contrazione vera e propria sta nei confronti del credito verso le imprese. E su questo il governatore è stato molto chiaro: le banche non devono essere imprudenti, ma devono conciliare la prudenza con gli aiuti alle imprese. Le banche sono determinanti nel rendere la crisi che stiamo affrontando più o meno duratura, più o meno profonda. Bisogna conciliare il perseguimento di prudenti equilibri economici e patrimoniali con l'esigenza di non far mancare il sostegno finanziario alle imprese con buona opportunità di crescita, reali capacità di superare la crisi. Tanto le banche quanto la vigilanza mancherebbero di assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità se si allontanassero dal sentiero della rigorosa valutazione del merito di credito. Un sistema bancario sano è condizione necessaria per lo sviluppo. È presidio del risparmio affidato agli intermediari. Ma è altrettanto importante che le banche, nel decidere sul credito da dare, usino tutta l'informazione loro disponibile, integrino i risultati dei metodi statistici di scoring, che perdono parte della loro capacità predittiva in momenti eccezionali, con la conoscenza diretta del cliente, delle sue effettive potenzialità di crescita e di redditività nel lungo periodo. Il radicamento territoriale del sistema bancario è prezioso, va utilizzato, dove è stato perso va ricostruito. Quindi, chiarissimo, governatore, là dove sto perso va ricostruito. Vuol dire che da qualche parte questo radicamento delle banche nel territorio, di alcune banche nel territorio, si è perso, si è indebolito. Comunque, questo giudizio del governatore sul rapporto banche-imprese, banche-famiglie. Qual è la novità che è arrivata oggi? Dicevamo, la proposta o l'apertura del ministro a una richiesta dell'ABI. Che cosa vi ha detto l'ABI ieri? Siamo coscienti che in un periodo di crisi è difficile ridurre le imposte, ma non è realistico e accettabile che le banche paghino in sostanza il 12% in più rispetto alla media europea, ma anche paghino le tasse sulla sofferenza, che la sofferenza vuol dire quando uno non riesce a rientrare su dei crediti che ha concesso. È chiaro che con le imprese in difficoltà le banche aumentano anche le loro sofferenze, aumentano anche le difficoltà a riavere i soldi o a essere ripagati in maniera corrette come previsto. Pagare tasse su questo è inaccettabile. Sentiamo proprio Faisola ieri, il nostro ospite a Focus Economia, su questo tema. Abbiamo chiesto di applicare in Italia quello che capita in tutti i paesi del mondo. Le perdite che sono iscritte a bilancio sono fiscalmente deducibili per la loro interezza. In Italia sono deducibili soltanto a certe condizioni, con dei limiti, ecco, direi quantitativi e qualitativi, che non ci consentono di non pagare le imposte sugli utili che non abbiamo conseguito, ecco. E dicevamo oggi l'apertura del ministro Tremonti. Il governo è pronto a rivedere, e naturalmente a rivedere in meglio, il regime fiscale per quello che riguarda le perdite e le sofferenze delle banche nei confronti dei crediti che hanno concesso. In cambio, questo lo aggiungo io, ma era abbastanza implicito nel ragionamento del ministro, vi sia un nuovo inizio, il governo farà la sua parte, ma le banche adottino una specie di moratoria sulle scadenze dei crediti delle imprese. Voglio dire che se io devo ritornare alla banca una parte, ho la rata per pagare una parte del prestito che ho ottenuto, che per esempio scade a settembre-ottobre, vi sia una sospensione, una moratoria per i prossimi mesi, visto le incertezze preoccupanti per quello che riguarda il periodo ancora settembre-ottobre e novembre. Sentiamo la doppia proposta del ministro Tremonti. Il governo si impegna a rivedere, e naturalmente a rivedere in meglio, il regime fiscale delle deduzioni delle perdite sui crediti. Non solo. Ci sono tavoli di regole che non discendono dal Monte Sinai. E sono le regole, che non sono né immutabili perché sacre, né assolutamente razionali. Parlo di IAS 39 e di Basilea 2. Il governo italiano con gli altri governi europei si sta attivamente e tempestivamente adoperando per modificare. Pare arrivato anche per noi il tempo per un nuovo inizio. Abbiamo ora, oggi, banche, imprese, governo, abbiamo una comune responsabilità verso il nostro Paese. Quanto è stato fatto è stato necessario, ma ora, proprio ora, può essere necessario fare di più. Qualcosa che va tutti insieme, concordato e dettagliato. Qualcosa che può prendere la forma di un avviso comune da produrre subito, prima di agosto. Nel rispetto delle regole e della integrità del patrimonio delle banche, su base non obbligatoria ma volontaria, la sostanza e lo spirito di una iniziativa comune possono prendere la forma, tanto di uno sforzo ulteriore per una moratoria sulle scadenze più pressanti dei crediti alle imprese. Allora, chiaro ragionamento del ministro Tremonti, nuovo inizio, avviso comune, mettiamoci tutti quanti assieme, non c'è più uno scontro, una conflittualità, però il governo è pronto a rivedere non solo il fisco sulle, la fiscalità sulle perdite per i crediti concessi, ma anche Basilea 2, ci sono dei concetti un po' tecnici, ma che riguardano il modo in cui le banche sono obbligate a concedere credito sulla base degli standard europei adottati, questa è Basilea. Anche perché queste non sono regole, ha usato l'espressione, non sono scese dal Monte Sinai, non sono le tavole bibliche, si possono rivedere, però occorre che il nuovo inizio valga per tutti. Positiva il commento del presidente dell'ABI Faissola, positiva la proposta di Tremonti, la approfondiremo. Ottimo il giudizio sulla proposta di Tremonti, anche quello espresso dal presidente di Confindustria Marcegaglia, che ha detto lì la proposta di una moratoria sui crediti delle imprese è una proposta ottima. Mettiamoci subito al lavoro, sentiamola al microfono della nostra Chiara Di Michele. E la possibilità di una maggiore deduzione delle perdite su crediti da parte delle banche. Mi sembra un'ottima proposta, ha dato anche una data, entro fine luglio, no? Quindi fine agosto, va bene, insomma, diciamo. E quindi mi sembra una cosa molto importante su cui lavorare da subito. Noi siamo molto disponibili e apprezziamo questa apertura. È positivo il giudizio anche da parte del presidente della Confcommercio Carlo Sangalli, ha detto mi piace sentire il ministro Monti che dice meno Basilea 2, più attenzione a quel rapporto umano di prossimità tra la banca nel territorio e i suoi clienti. Certamente la missione fondamentale delle banche resta quella di selezionare nel merito il credito. Ho condiviso poi l'intervento del ministro Tremonti e di Corrado Faissola, che posso sintetizzare così: meno Basilea 2 e più attenzione a quella relazione di prossimità tra banche e imprese che hanno consentito nel passato uno sviluppo non soltanto del territorio ma anche dell'economia del nostro paese. Quindi la richiesta di Tremonti di una moratoria. Non c'è dubbio, ci trova consenziente, perché, ripeto, noi l'abbiamo anche sollecitata nella nostra assemblea di Confcommercio del 24 giugno. Vedremo, perché poi i tempi che ha chiesto il ministro Tremonti sono tempi molto stretti, se ho capito bene, da agosto, già da agosto ragionare su un accordo di massima, meno fisco per i passivi bancari dovuti a sofferenze e da un lato, però moratoria nei confronti del prestito alle imprese. La notizia più grossa era questa per quello che riguarda l'assemblea dell'ABI. Dopo le informazioni meteo, la pubblicità e prima di passare alla borsa, che comunque sta chiudendo male, ai minimi, meno 2,2% Piazza Affari. Dicevo, prima di arrivare alla borsa sentiremo anche però qualche richiamo arrivato dal governatore della Banca d'Italia Draghi, soprattutto sul massimo scoperto, che è la commissione di massimo scoperto che è rientrata dalla finestra, e sulla necessità di una trasparenza nei confronti delle politiche e dei prodotti verso i clienti, delle tariffe soprattutto applicate alla clientela. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vi do subito un aggiornamento dal G8. I leader del G8 hanno approvato la dichiarazione economica, quindi c'è un testo condiviso per quello che riguarda l'aspetto economico e gli inviti che arriveranno. Ne parleremo alle 18:15. Sempre un aggiornamento d'agenzia, ve lo do in diretta. Continuerà anche domani lo sciopero dei benzinai, perché si è interrotto senza arrivare ad alcun risultato l'incontro che era in corso al Ministero dello Sviluppo Economico fra i gestori e le compagnie petrolifere. Quindi sciopero delle pompe di benzina anche domani. Noi invece torniamo sul tema che stavamo concludendo, e quindi l'assemblea dell'ABI oggi a Roma, Associazione delle Banche Italiane. La proposta del ministro Tremonti, ben accolta sia dal presidente dell'ABI che da quello di Confindustria che da quello di Confcommercio. Dicevamo del governatore Mario Draghi, che ha detto alle banche: attenzione, per favore eliminiamo una volta per tutte il massimo scoperto da un lato, che non facciamo rientrare come commissione di altro genere, e poi massima attenzione alla trasparenza nelle pratiche applicate alla clientela. Veniamo alla questione del massimo scoperto. Sollevai la questione di questa commissione già all'inizio del 2007. Invitavo le banche a superare un istituto poco difendibile sul piano della trasparenza e dell'efficienza. Il legislatore dava alla Banca d'Italia solo il potere di verificare che queste clausole, per quanto non buone, venissero però applicate con trasparenza, non di sostituirle con forme contrattuali diverse. La ripetuta azione di moral suasion sortiva però effetti soltanto nei confronti dei maggiori gruppi. Necessario è stato quindi l'intervento d'imperio del legislatore, anche se è auspicabile un riordino delle varie disposizioni in materia di rapporti tra banca e cliente, riordino previsto peraltro nella legge comunitaria da poco approvata dal Parlamento. Ora le banche, specialmente quelle di media e piccola dimensione, devono risolvere la questione alla radice. Sostituiscano spontaneamente, una volta per tutte, le commissioni complesse e opache con commissioni ragionevoli, perché non è possibile uscire con commissioni del 4, commitment fees del 4% in un periodo come questo, con commissioni ragionevoli sui fondi messi a disposizione. Per il resto si riconduca tutto all'applicazione trasparente dei tassi di interesse. La crisi rafforza la necessità di continuare nell'azione per migliorare gli standard di correttezza e trasparenza nei rapporti col pubblico, per dirimere in tempi rapidi le controversie tra gli intermediari e i clienti, per promuovere un uso più consapevole degli strumenti finanziari da parte di risparmiatori e investitori. La fiducia nella clientela è il perno di stabilità del sistema finanziario. La nuova disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia si è profondamente evoluta rispetto al passato. Vuole che il cliente disponga di informazioni semplici da capire, utili a valutare la convenienza delle operazioni che gli vengono proposte, la correttezza di chi gliele propone, richiede agli intermediari di adottare procedure interne che assicurino comportamenti corretti. Le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica su queste proposte, consultazione conclusesi in maggio, hanno confermato la validità dell'impianto della riforma, le cui disposizioni verranno emanate entro questo mese. Complementare alla giustizia civile il nuovo sistema per risolvere le controversie in materia di servizi bancari e finanziari, l'arbitro bancario e finanziario, consentirà ai clienti di ottenere decisioni imparziali in modo rapido e poco costoso. Saranno istituiti 3 collegi, uno per il nord, uno per il centro, uno per il mezzogiorno. I clienti delle banche vi si potranno rivolgere anche tramite le filiali della Banca d'Italia, che assicurerà le strutture tecniche per il funzionamento dell'arbitro. E quindi massima attenzione del governatore della Banca d'Italia alle commissioni applicate alle banche. Dicevamo oggi l'impressione che abbiamo ricevuto, stando all'auditorium dove si è tenuta l'assemblea, è quasi di un governatore più rigido, più stentoreo nei confronti delle banche di quanto non sia stato ministro dell'economia, che notoriamente non ha mai risparmiato però le sue stoccate al mondo bancario. Tremonti punta a un accordo a 3, mondo delle imprese e commercio, governo e banche. Draghi invece ha richiamato le banche, ricordando anche gli appelli fatti a fine maggio durante le considerazioni finali del governatore, le banche a trasparenza nelle pratiche applicate, a ricondurre i costi a quello che è l'andamento dei tassi di interesse, non con una riduzione dei costi più meno forte rispetto a quella che è stata la riduzione del tasso di interesse in questi anni. E poi ha detto non sono accettabili in questo periodo commission fees, che vuol dire quello che ci guadagna la banca, del 4% su certi prestiti. E poi l'ultimo appello di Draghi riguarda anche i guadagni dei manager. Infatti il governatore della Banca d'Italia ha detto che la Banca d'Italia istituirà una task force per andare a controllare gli effettivi meccanismi con cui vengono pagati i manager bancari e chiedere correttivi laddove risultasse necessario. E poi ha invitato le banche a rafforzare il patrimonio e ha messo in guardia perché il periodo attuale non sarà di breve durata, un periodo di difficoltà nei confronti di difficoltà per l'intero sistema bancario. Chiusa la pagina sull'ABI, passiamo alla pagina di borsa. Borsa, meno 2%. Vediamo se riesco a recuperare la campanella che non mi è arrivata all'improvviso. Borsa. Senza campanella non andava avanti. Allora, meno 2% il FTSE MIB, meno 1,9% il FTSE All, e quindi male Milano, peggio di Parigi che perde l'1,3%. Francoforte meno 0,5, Londra meno 1,3% nel finale, l'America meno 0,3%. Impregilo guadagna l'1,90, Finmeccanica guadagna lo 0,90, Terna lo 0,70. Però, sempre di banche parliamo, male oggi tutti i gruppi bancari. Banco Popolare meno 5%, Popolare di Milano meno 4,5%, Unicredit meno 4,1%, Unipol meno 3,90, Intesa meno 3,70, Fondiaria meno 3,5, Monte dei Paschi meno 2,90. Autogrill perde 4,6, quindi usciamo dal tema bancario. CIR meno 4,5, Pirelli meno 4,5, Campari meno 4,30, Tenaris meno 4, Luxottica meno 3,80, Geox meno 3,60, e cos'altro? Telecom meno 3,1, chiudiamo con Fiat meno 2,5, come Ansaldo STS e Mediolanum. Giornata pesantina, A2A meno 2,3, Mondadori meno 2,2, Alleanza meno 2, Generali meno 1,5, Euro quota 1,38, giornata pesantina, dicevo che si è intensificata quanto a calo nella parte finale. Paolo Paronetto, buonasera, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera a tutti. Che è successo nel finale? Ma nel finale ci sono state una serie di movimenti tecnici che hanno portato a un'accentuazione del calo che tra l'altro era stato comunque abbastanza costante per tutta la seduta, come ricordavi tu, soprattutto sui titoli bancari. E gli operatori spiegano l'andamento di oggi come un generale atteggiamento di prudenza alla vigilia della stagione delle trimestrali statunitensi, che comincerà proprio nella notte italiana con Alcoa come tradizione tra i titoli del Dow Jones. Quindi gli investitori poi in una serie di sedute, sono giorni che commentiamo sedute molto tecniche in cui si alternano lievi cali e lievi riprese, alla vigilia di questa stagione delle trimestrali, per capire, prima di capire quali saranno le indicazioni che arriveranno dalle imprese statunitensi, hanno scelto la prudenza, in particolare sulle banche, dopo che oggi il Fondo Monetario è tornato a dire che la priorità è quella di ristabilire una condizione di equilibrio nel sistema finanziario sia negli Stati Uniti che nell'Europa, e in particolare per l'Unione Europea ha parlato di necessità di ricapitalizzazioni, e quindi questo ovviamente è tornato a gettare un po' un'ombra sulle banche. Posso accennare brevemente a Impregilo, che è proprio una notizia arrivata sul finale, sì, che era stata piatta per gran parte della seduta, è scattato sul finale proprio con l'apertura delle buste e delle offerte per l'espansione, per la gara per l'espansione del canale di Panama. Secondo quanto comunicato dall'autorità del canale di Panama, l'offerta presentata dal consorzio di cui fa parte Impregilo con la spagnola Sacyr Vallehermoso sarebbe la più bassa, quindi quella più conveniente, e quindi quella che dovrebbe essere, anche se condizionale ovviamente d'obbligo perché deve essere valutata, dovrebbe essere in pole position per aggiudicarsi la gara. E beh, quindi una notizia economica, strettamente economica e non tanto speculativa, per giustificare l'andamento di Impregilo, che appunto, come ricordavamo, è stato il miglior titolo oggi, più 1,90%. I migliori e peggiori in assoluto, miglior titolo tra quelli maggiore capitalizzazione, Elica, le cappe, più 12,6%, e ancora poco altro, dove Philips, più 3,6%, Seat, pagine gialle, ma sulle risparmi più 12%. Invece il peggiore titolo è Banca Profilo, meno 10,20, e poi De Longhi, meno 6,80, Renault, meno 6,5%. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, parliamo anche di titoli che si erano mossi bene fino a metà seduta, penso a Finmeccanica, l'Automatica, Edison, che poi invece hanno ritracciato, come si dice in gergo, cioè hanno chiuso a livello inferiore. ...17:47, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiudiamo allora la pagina di borsa. Paolo Paronetto, in realtà oggi le cosiddette utilities, quindi quei gruppi che si occupano dei servizi al cittadino, energia, acqua, gas, elettricità, andavano bene, Edison, Terna, Enel. Sì, oggi in una giornata in cui appunto, come abbiamo detto, ha prevalso in particolare la prudenza, sono stati questi titoli che vengono considerati spesso tra, anzi sono considerati i più difensivi, hanno guadagnato terreno per gran parte della seduta, anche se sul finale molti di questi hanno anch'essi ceduto alle vendite e hanno chiuso in territorio negativo. Ha chiuso positiva invece Terna, che è stata una dei pochi titoli del FTSE MIB a guadagnare terreno, ha guadagnato lo 0,75%. 1%, e anche Enel, che era stata tra i positivi fino all'ultimo, alla fine invece ha girato in territorio negativo, limitando comunque le perdite allo meno 0,5%, da segnalare tra l'altro che Enel era stata anche sostenuta da un giudizio positivo di una banca d'affari, in questo caso è Goldman Sachs, che ha alzato la raccomandazione sui titoli a buy, cioè comprare, dal precedente neutral. Beh, sì, c'è stata una correzione di tutti i titoli, quindi anche settori e titoli che bene andavano poi hanno dovuto appunto chiudere in negativo. Poca roba, va detto, meno 0,5, nel caso di Terna invece più 0,7, così come nel caso di Finmeccanica. Di Paolo, indiscrezioni che riguardano il fondo libico, insomma, Finmeccanica guadagna lo 0,90%, Lottomatica invece alla fine ha chiuso in negativo, meno 0,45%. Grazie a Paolo Paronetto, e noi ci avviciniamo adesso al terzo tema di questa puntata, il G8, ma lo facciamo partendo dal territorio, o meglio dal Nord-Est. Pubblicato infatti il rapporto della Fondazione Nord-Est, anzi presentato ieri al Presidente della Repubblica Napolitano, il rapporto della Fondazione Nord-Est 2009, decimo rapporto sulla società e l'economia. Ebbene, in una terra come anche la Lombardia, va detto, ma che ha visto grossi, che ha registrato grossi problemi per via della crisi economica, quindi fatturati, ordinativi, produzione industriale in calo, non mancano le buone notizie, o meglio, ci sono dei punti di forza nei distretti industriali che spesso non vengono ricordati. La difficoltà c'è per tutti, c'è per chi esporta, e chiaramente la cosiddetta pedemontana, cioè quell'asse che va indicativamente da Novara, forse eccessivo, ma insomma che va da Bergamo a Treviso, è un asse che sta soffrendo più di altri, perché esporta verso la Germania, verso il Giappone, perché fa macchinari industriali, macchinari utensili, quindi insomma subisce le conseguenze del crollo dell'esportazione e del fatto che il commercio mondiale si sia fermato. Però non ci sono solo notizie, diciamo, negative e preoccupanti, perché, come riporta la Fondazione Nord-Est, i distretti che hanno alta qualità, produzione di alta qualità e servizi alle imprese tengono bene. Chiedo conferma a Daniele Marini, che della Fondazione Nord-Est è il direttore scientifico. Buonasera, dottor Marini. Sì, buonasera a voi. È così, cioè voi ieri al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano avete presentato un rapporto che non è fatto, per fortuna, solo di ombre. No, per fortuna no. È appunto, come ha ricordato prima, il decimo rapporto, per cui abbiamo fatto anche un po' di ricostruzione di questi 10 anni, cosa è successo, perché i territori, per capire come va la crisi, per usare una metafora, potremmo dire che è un po' come quando uno viene colpito da una malattia. Se uno viene colpito da una malattia che ha il corpo, diciamo così, sano, la malattia può passare via in modo più o meno leggero. Se invece è già debole di suo, è chiaro che la malattia appesantisce la situazione. Quindi in questo senso, al di là della metafora, quello che possiamo sostenere è che il Nord-Est in particolare in questi anni aveva avviato un processo di trasformazione che oggi, diciamo, comincia a far vedere alcuni segnali positivi di maggior resistenza. Lo abbiamo visto attraverso gli indicatori congiunturali, quelli tradizionali, che avevano toccato il fondo nel febbraio di quest'anno, e poi da quel mese le indagini appunto congiunturali, pur rimanendo prevalentemente con saldi di opinione in campo negativo, però continuano progressivamente a salire. Al punto che a maggio, l'ultima rilevazione fatta a maggio, ci dava per esempio l'export come saldo di opinione, cioè la differenza fra chi dice è in calo e chi dice che è in crescita, arrivava a zero. Addirittura gli ordinativi salivano a più 10, sempre, ripeto, come saldo di opinione, mentre gli altri indicatori come l'occupazione piuttosto che l'utilizzo dei macchinari e così via rimangono ancora, ripeto, in campo negativo, ma tendono a risalire. Quindi ovviamente non siamo fuori dalla crisi, tutt'altro, le opinioni espresse dagli imprenditori sotto questo profilo sono molto caute, la previsione che fanno è che la crisi almeno si paleserà fino ai primi mesi del 2010, questa è la grande maggioranza. però c'è già un 7-8% che comincia a dire segnali di crescita l'individuo. Ecco, a me sembra, dottor Marini, che la cosa più interessante, ma mi sbaglierò probabilmente, di questo rapporto è che a fronte di uno scenario, di un clima sicuramente non bello, però siccome il nord-est è di collasse pedemontano, è chiaro che la Lombardia non fa parte del nord-est, lo dico che me lo chiede al 349-238-6666, diciamo rientra in quella parte del paese che sta soffrendo più di altre, ma dicevo, nel ripensare un modello, perché è chiaro che ormai te la scodi la concorrenza con la Cina, l'hai persa, meno male per me e per alcuni punti di vista, però nel ripensare un modello di distretti, di rete, di valore aggiunto, voi avete scoperto che chi sta tenendo meglio di altri e addirittura delle volte guadagna, sono i settori a maggior valore aggiunto. Se riusciamo anche a dare dei nomi, dei cognomi, delle immagini a questi settori, dove si fa più valore aggiunto, prodotti di alta qualità. Sì, è così, e questo perché appunto ancora a partire dagli anni 90 alcuni settori e alcune imprese, in modo anche trasversale però bisogna dire, hanno capito che non era più sufficiente fare un buon prodotto, punto, ma era necessario investire anche nella parte immateriale, e quindi appunto valore aggiunto che è dato dall'innovazione tecnologica, ma è anche data da una nuova forma di organizzazione, è data dal fatto di aver investito nel marchio, nei brand, nella comunicazione, nell'essersi organizzati per esempio in una filiera in modo più strutturato, soprattutto per quelle imprese, e sono una fetta consistente, che ha aperto le proprie relazioni con i mercati esteri, è quello di essersi data per esempio una rete commerciale propria. Nell'ultima indagine che abbiamo fatto proprio per il Sole dell'Italia delle Imprese risulta che fra quelle che hanno relazione con i mercati esteri oltre un terzo ha una propria rete commerciale, perché le imprese hanno capito che bisogna arrivare fino al cliente finale. La filiera, la tanto evocata filiera in cui tu, esatto, riesci a controllare non solo il bene che produci, ma anche dove viene commercializzato, venduto, come viene fatta assistenza poi alla clientela. Non basta metterlo sul mercato perché tanto è bello, è buono quello che ho fatto, occorre anche saperlo vendere. Daniele Marini, per concludere, in una battuta, un altro dato che emerge nel vostro rapporto sul Nord-Est è un aumento della popolazione residente e anche della popolazione diciamo immigrata. Sì, assolutamente. Cioè voi avete scoperto, perché la cosa mi ha impressionato, che nel nord-est è come se negli ultimi 10 anni si fossero aggiunte due città di 250.000 abitanti? Sì, esatto, è così. È come se ci fossero due Verone in più o due Padove in più nel nord-est. E questo è frutto dell'afflusso, in particolare ovviamente della popolazione immigrata, ma negli ultimi anni è dato anche dal fatto che è ripresa la natalità. Ormai il livello di natalità nel nord-est è prossimo a quello dei paesi nord-europei, siamo a 1,4 figli per donna in età fertile, e questo è certamente dovuto agli immigrati, ma hanno ripreso a fare figli anche le donne in età più adulta, intorno ai 35 anni, e soprattutto le coppie diciamo conviventi, quindi al di fuori del matrimonio regolare. Ma c'è politiche sociali per la famiglia? Non ne ho viste io in questi anni. Ci sarà un altro motivo, immagino. Beh, sono motivi, sì, esattamente, non ci sono politiche a favore della famiglia. Sono però le persone che evidentemente, come dire, quando si fanno figli vuol dire che c'è fiducia nel futuro, c'è bisogno di dare, fra virgolette, una discendenza, no? E quindi evidentemente le coppie, le giovani coppie, soprattutto quelle locali, perché gli immigrati appunto sappiamo che fanno un numero di figli superiore alla media nazionale, però evidentemente anche le giovani, fra virgolette, non possiamo più considerarle giovani coppie, perché? Però Maria, non dica che una donna di 35 anni non è giovane, perché mi crea dei problemi sull'ascolto che le neanche idea. No, ma ho capito benissimo il ragionamento, e ha ragione, ed è un dato importante, perché l'aspetto demografico purtroppo delle volte non sempre riusciamo a trattarlo, ma è un aspetto assolutamente fondamentale nell'aspetto più generale dell'economia, dell'andamento produttivo di un paese. Grazie al direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, Daniele Marini. Adesso il GR e poi parliamo di G8, partendo dall'accordo raggiunto sul documento economico. ascoltando anche alcune delle dichiarazioni, degli appelli all'etica, ai valori, alle regole necessari perché non abbia più a ripetersi quello che è successo tra il 2008 e il 2009 quanto a crisi finanziaria e mercati fuori da ogni controllo. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Parleremo soprattutto adesso di G8, visto che è arrivata poco fa anche la notizia che i leader del G8 hanno approvato anche la dichiarazione sul clima, oltre che la dichiarazione economica. Per chi si fosse appena messo in collegamento, ricordo, da un lato Assemblea dell'ABI, daremo alcuni spunti anche su questo, perché è arrivata un'apertura del ministro Tremonti. Sulle commissioni di Massimo, scusatemi, sul rapporto banche e imprese, e poi l'appello di Draghi a maggior trasparenza nei tassi applicati. Sempre a livello di notizie di cronaca, oggi da Bruxelles si è saputo che il PIL, l'economia dell'area euro nel primo trimestre 2009 è crollata del 2,5% rispetto all'ultimo trimestre 2008 e del 4,9% rispetto a un anno prima. Dato peggiore da quando esiste l'euro. E ancora il Fondo Monetario, questa volta guardiamo al futuro, non parliamo del passato. Per il 2009 complessivamente l'economia mondiale calerà dell'1,4%, in Europa sarà un meno 4,8%, in Italia un meno 5,1%. Nel 2010 invece, quindi previsioni riviste al ribasso sul 2009 da parte del Fondo Monetario, ma riviste migliorate, quindi riviste al rialzo. Nel 2010 crescerà l'economia mondiale del 2,5%, grazie soprattutto ai paesi asiatici e ai paesi emergenti, BRIC, Brasile, India, Cina, un po' meno la Russia. E per quello che riguarda l'Europa, più 0,8% nel 2010, l'Italia meno 0,1% nel 2010. Sempre i dati economici si è parlato all'Assemblea delle Banche Italiane, perché dopo il dato di ieri che aveva visto scendere per la prima volta il ricorso alla cassa integrazione, aveva fatto un meno 8% a giugno, quindi c'è stato un minor richiesta di cassa integrazione, il governatore Draghi ha detto: bene, ma attenzione, una rondine non fa primavera. C'è un dato positivo, incoraggiante, sulla diminuzione delle ore di cassa integrazione, che potrebbe far pensare che forse le cose stanno cambiando. Ma occorre molta cautela nell'interpretarlo, perché abbiamo avuto già una volta una diminuzione di ore di cassa integrazione a gennaio e poi 4 mesi di aumenti consecutivi, ma poi abbiamo, in realtà dobbiamo constatare che esiste una forte stagionalità, per cui negli ultimi 20 anni in media le ore di cassa integrazione diminuiscono a giugno. Quindi diciamo, una rondine non fa primavera, ma tuttavia bisogna cogliere, diciamo, il segnale positivo che viene da questo dato. Quindi speriamo di vedere altre rondini nei mesi che seguono. Così il governatore Draghi. Commento sui dati alla cassa integrazione positivo anche da parte della presidente Confindustria Emma Marcegaglia, che ha detto: attenzione, però resta alta la guardia, bisognerà vedere cosa capita nei prossimi mesi. È un dato comunque positivo, però dobbiamo comunque capire che cosa succederà nei prossimi mesi. Il nostro timore è che ci possano essere un pezzo un po' di imprese, un pezzo di sistema produttivo che possa avere grandi difficoltà, e quindi difficoltà anche a riaprire a settembre permane. Così Emma Marcegaglia, microfono della nostra Chiara Di Michele. L'ultimo dato che riguarda l'economia italiana riguarda il settore del macchinario, utensili, robot e automazione. Ripeto, una delle colonne portanti del nostro modello produttivo del settore manifatturiero. L'UCIMU, che è l'unione che raggruppa le principali imprese, oggi ha diffuso il dato: meno 33,7% la produzione di macchine, utensili, di robot e macchine per l'automazione nel 2009. La cosa strana è che si contrae sia l'export, meno 33%, che il mercato interno, meno 34,9%. A chi ci chiede: ma come mai, penso si riferisse all'approfondimento dell'ultima parte della prima ora, quello sul nord-est, come mai si è fermato il mercato mondiale? Beh, veramente è successa una cosa stranissima, ne abbiamo già parlato altre volte. da gennaio in poi, da fine 2008 in poi, si è bloccato il traffico mondiale di merci per una crisi di sfiducia in primo luogo. Non fidarsi fa sì che uno non acquisti, se tu non acquisti i magazzini di chi vende si riempiono e via così. E questo lo si vede in tantissimi dati, a partire dal traffico mondiale di cargo, ma non so, c'è stata una frenata, un interruttore spento, come disse una volta un imprenditore ai nostri microfoni. E proprio con l'obiettivo che questo interruttore si invece si riaccenda, sono arrivate le prime dichiarazioni dal G8 in corso all'Aquila da oggi fino a venerdì. Oggi era la volta dei G8 vero e proprio, in parallelo i G5, che sarebbero i paesi emergenti, Brasile, Cina, India, Messico, Sudafrica ed Egitto. E poi le due G8 e G5 si uniranno, diventeranno G13, poi ci sarà il G20. Comunque lasciamo stare le parti tecniche. Documento sull'economia approvato poco fa. Tra l'altro oggi, in un'intervista al Corriere della Sera, il premier britannico Gordon Brown aveva aperto alla proposta italiana dei legal standards, proposta del ministro Tremonti, arrivare a regole più stringenti, a standard che valgano per tutti a livello mondiale. L'obiettivo è maggiore moralità e maggiore etica. Di etica e valori nell'economia ha parlato il ministro Tremonti oggi, prima di andare all'Aquila, quando è intervenuto all'assemblea dell'ABI. Che le regole siano necessarie per l'economia, conquista che risale, conquista di culturale, visione che risale a 2 o 3 secoli fa. Sulla utilità delle regole per l'economia, sono fondamentali nella loro funzione i grandi codici borghesi fatti al principio dell'Ottocento, è fondamentale nell'analisi scientifica la lettera di Engels a Marx sul ruolo fondamentale del diritto. Ma c'è qualcosa in più: non solo le regole sono fondamentali per il funzionamento dell'economia, le regole devono essere qualcosa in più, devono essere lo strumento che trasporta nel mondo dell'economia i valori, i principi, l'etica. Questo è il messaggio fondamentale che ci viene da ultimo, dall'enciclica. Questo è il punto fondamentale, l'etica, un quantum di principi e di valori superiori. Nessuno pensa a nuove regole che soffocano il mercato, ma nessuno può pensare che il mercato possa esistere senza regole. E in una fase intensa come questa, in una fase storica intensa come questa, anche con regole etiche, con regole morali, con principi che trascendono gli interessi particolari. Temi e elementi che il ministro Tremonti ha poi riproposto anche al G8 all'Aquila. Tra l'altro nella bozza, adesso ci collegheremo con l'Aquila, ma nella bozza vi è un accordo sulla necessità di una stabilità finanziaria globale, nel mettere le persone, la dimensione sociale della crisi al primo posto, quanto impegno, e anche alla necessità di una supervisione finanziaria anche qui mondiale. Insomma, è chiaro che questa crisi si è generata per un'assenza di controllo, o meglio per controlli, per una mancanza di informazione tra gli enti che dovevano controllare, per cui le autorità americane non sapevano quello che facevano quelle europee e viceversa, e poi c'erano i paradisi fiscali in cui nessuno sapeva nulla di quello che lì capitasse e capita tuttora. Viene respinto poi anche ogni tipo di protezionismo e viene fatto notare che restano i segnali di estrema incertezza e rischi sull'andamento economico nei prossimi mesi. Allora, si diceva della bozza dei G8 sull'economia, ma non solo, adesso è stata approvata anche quella sull'Africa e sul clima, lo dicevamo. Noi ci occupiamo però di economia. Sergio Navo, uno dei nostri inviati all'Aquila, buonasera Sergio. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Che cosa, dichiarazioni in voce ancora non abbiamo, anzi possiamo fare sentire però un Franco Frattini che oggi a inizio pomeriggio ha detto, ha anticipato che si sarebbe arrivati a un accordo sui temi economici perché c'era un largo consenso. Il ministro degli esteri Frattini: che per i temi economici si stia affermando il G20 io sono d'accordo, tanto è vero che ancora una volta il contributo principale della presidenza italiana nei temi economici sarà quello del global standard. Questo global standard, che tra l'altro viene molto apprezzato dal presidente Obama tra gli altri, significa avere delle regole globali che ispirino l'attività economico-finanziaria nel mondo alla moralità, al rispetto della trasparenza, alle regole di correttezza. Questo sarà un contributo per il G20 di Pittsburgh. Allora è giusto, per i temi economici il G20 si sta affermando, per l'ambiente, per il commercio, per la lotta al terrorismo, il G8, così come allargato, resta il modello a mio avviso preferibile. Beh, al di là delle definizioni, se sia meglio un G8 più un G5 che diventa un G13 o un G20, vabbè, questo riguarderà poi i singoli paesi, ma al di là di tutto, cioè, i contenuti, si ragionava della bozza approvata, anzi del documento approvato, sulla bozza non ho parlato di Sherpa, prendono spunto dalla proposta del ministro Tremonti, arrivata proprio da Parigi, se non ricordo male, dei global legal standards, vi avete delle regole globali e generali per tutte, per quello che riguarda le transazioni finanziarie ed economiche. Sergio? Sì, c'è chi l'ha definita le 12 tavole della legge, diciamo, etica, economico-finanziaria, sono ovviamente contemplati, ovviamente stiamo ancora parlando di una bozza, per cui non possiamo assolutamente avere un comunicato ufficiale, però sarebbero contemplate all'interno di questa bozza. C'è da dire che da quello che sappiamo sono semplicemente contemplati, poi diciamo il renderli vincolanti sarà un passo successivo, come diceva una fonte della presidenza italiana del G8, qui si pongono le fondamenta, poi a Pittsburgh si costruirà la casa e poi ancora più avanti forse si metterà il tetto, però come dire, a livello di sostanza non dovrebbe uscire moltissimo, almeno a quello stiamo vedendo, anche perché poi lo dicevi anche tu prima, Sebastiano, c'è ovviamente un appello ancora alla lotta contro il protezionismo, c'è il messaggio People First, poi c'è anche la lotta contro l'evasione fiscale, però sono messaggi che già abbiamo sentito al G20 di Londra, non c'è molto di nuovo. Sì, assolutamente d'accordo con te, tra l'altro quella che è stata approvata è la dichiarazione economica, va detto però che anche arrivare a un accordo di massima è sostanza, se poi questo porterà a Pittsburgh a una definizione, poi di una sottoscrizione delle regole condivise e poi magari anche più avanti alle sanzioni, perché non esistono regole purtroppo senza sanzioni. Per quello che riguarda invece l'accordo e i pesi e contrappesi più generali, ormai mi sembra che stia passando, Sergio, l'idea in tutti che il G8, per quello che riguarda i grandi temi dell'economia, non conta più, cioè non ha più senso così com'è strutturato. Tutti parlano di G20, che poi vuol dire in sostanza infilare dentro anche Brasile, Cina, India in primo luogo, e poi l'Africa, il Sudafrica e altri paesi, diciamo, di rilievo tra quelli in via di sviluppo. Sì, è interessante notare questa cosa, anche perché effettivamente in qualsiasi dichiarazione si dice il G8 approva e poi porterà l'attenzione il G20, e non parliamo solo di economia ma anche di ambiente, per cui effettivamente ormai tra gli emergenti lo stesso Lula ha detto esplicitamente il G8 è morto, diciamo diversi esponenti italiani, lo stesso Silvio Berlusconi ha detto al G8 preferisco il G14, c'è un cambio della governance mondiale in atto abbastanza evidente e penso lo vedremo sempre di più nei prossimi mesi. Ancora sui temi economici, visto che abbiamo visto poco fa arrivare approvata anche la dichiarazione sull'Africa e sul clima, da parte dei paesi africani che spinta sta arrivando? Mi riferisco chiaramente ai temi economici. Ma ancora ovviamente non c'è una posizione chiara, perché l'Africa sarà più che altro domani, dopodomani, insomma, certo. Oggi si parla di G8 e G5, diciamo che l'Africa chiede sostanzialmente di non pagare, innanzitutto di vedere onorati gli impegni presi a Gleneagles nel 2005 di portare a 50 miliardi gli aiuti, e questo ancora qualcuno l'ha fatto, qualcun altro come l'Italia non l'ha fatto, anzi ha dato solo il 3%, e poi c'è anche un problema finanziario, economico, e riguarda soprattutto l'ambiente, cioè i paesi africani, i paesi in via di sviluppo dicono, noi possiamo fare la nostra parte sull'ambiente, sulla lotta ai cambiamenti climatici, ma ci dovete pagare. Insomma, c'è chi stima, lo stimava eh, lo stimavano le organizzazioni ambientaliste, 140 miliardi annui di dollari da destinare all'Africa per insomma proteggere le foreste, per ridurre anche le emissioni ovviamente minori che ci sono in quei paesi, e di cui 100 pagati dai paesi del G8. Quando parliamo di lotta ai cambiamenti climatici dobbiamo tenere in conto che c'è poi un conto da pagare non solo internamente ma anche esternamente. I paesi in via di sviluppo non avete inquinato finora, adesso se volete che noi in qualche modo proteggiamo l'ambiente dovete pagarci. Grazie, poi vedremo anche le altre dichiarazioni, vedremo anche cosa uscirà al di là delle bozze complessive. A chi scrive però al 349-238-6666 non serve a niente. Beh, non sono così d'accordo. I grandi cambiamenti a livello storico, penso Bretton Woods, penso alla fine di Bretton Woods, sono arrivati da accordi internazionali, non dimentichiamocelo. Per cui se da questo G8 uscirà una bozza di accordo complessivo di nuove Global League Standards, di nuove regole globali per l'economia e la finanza, e a Pittsburgh verranno sottoscritte, ratificate e poi anche con le sanzioni, secondo me quello sarà un risultato concreto, non ci si può arrivare in una botta sola, questo è fuori discussione. Riprendiamo l'ultimo tema di questa puntata, riprendiamo, dico, perché a mio avviso oltre al G8 l'altra notizia importante del giorno, la proposta avanzata dal ministro Tremonti, perché poco fa Emma Marcegaglia a maggio nell'assemblea di Ucimo ha detto: già dalla prossima settimana faremo un incontro fra ABI, Confindustria e il ministro Tremonti sulla moratoria ai crediti delle imprese. Di che cosa si tratta? Ascoltiamolo in questi due passaggi in cui oggi il ministro Tremonti, appunto intervenuto all'assemblea delle banche italiane, ha detto in sostanza: da un lato il governo è disponibile a ragionare per quello che riguarda il regime fiscale sui passivi, sulle perdite delle banche quanto a crediti, le sofferenze bancarie sono in aumento, le aziende pagano meno, pagano in ritardo, non riescono a pagare tutto e quindi trova sbagliato l'ABI pagare delle tasse su questo. Noi siamo d'accordo, ha detto Tremonti, a patto che però le banche attuino una moratoria sulle scadenze dei crediti delle imprese. Il governo si impegna a rivedere, e naturalmente a rivedere in meglio, il regime fiscale delle deduzioni delle perdite sui crediti. Non solo. Ci sono tavole di regole che non discendono dal Monte Sinai. E sono le regole, che non sono né immutabili perché sacre, né assolutamente razionali. Parlo di IAS 39 e di Basilea 2. Il governo italiano con gli altri governi europei si sta attivamente e tempestivamente adoperando per modificare. Pare arrivato anche per noi il tempo per un nuovo inizio. Abbiamo ora, oggi, banche, imprese, governo, abbiamo una comune responsabilità verso il nostro paese. Quanto è stato fatto è stato necessario, ma ora, proprio ora, può essere necessario fare di più. Qualcosa che va tutti insieme, concordato e dettagliato. Qualcosa che può prendere la forma di un avviso comune da produrre subito, prima di agosto. Nel rispetto delle regole e della integrità del patrimonio delle banche, su base non obbligatoria ma volontaria, la sostanza e lo spirito di una iniziativa comune possono prendere la forma tanto di uno sforzo ulteriore per una moratoria sulle scadenze più pressanti dei crediti alle imprese. E con questo si conclude la puntata odierna di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.